guardi, con riferimento alle strutture industriali è indubbio che un po' di ritardo ci sia. Credo che questa sia la settimana decisiva, nel senso che è stato preannunciato dal Presidente Errani l'ordinanza cosiddetta Capannoni per venerdì e sabato. È lo strumento indispensabile per cominciare a presentare le domande relative ai costi di ricostruzione e ragionevolmente nel giro di qualche mese avere materialmente i soldi. Perché è importante? Perché comunque la Regione ti dovrà in un tempo ragionevole dire quali costi sono ammessi a contributo e quindi l'impresa potrà programmare anche utilizzando mezzi propri e il credito bancario, che è un altro punto dolente in questo momento della situazione complessiva. Quindi veramente i problemi sono molto vasti e molto complessi. Dopo questa ordinanza scatterà il momento della verità, cioè la burocrazia dovrà avere quella lungimiranza di non frapporre ulteriori ostacoli per piccole questioni e avviare veramente la ricostruzione.